briciola, su che andiamo, briciola, attento briciolina, briciola, ora. Hola, hola, hola. Ay, qué caldo. Su, su que andiamo. Su que andiamo, qué caldo, su. Vedete che bel ghiacciolo.